Convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Dybala, sempre sulla linea dei tre quartisti, palla all'interno dell'area di rigore. Che dirà! Juventus in vantaggio! Al 21esimo si sblocca il risultato. Calcio d'angolo di Callejon, tagliata a rientrare dentro, ancora lo stacco di Milik che fa addirittura doppietta, si presenta alla grandissima al San Paolo, 99 a segno ancora, 2-0 per il Napoli che adesso domina. 2-0 per il Napoli che adesso domina. Räikkönen che si infila alle spalle di Rosberg con Verstappen che risponde, con Vettel che va all'esterno, il contatto tra i due piloti a Ferrari e Vettel che rimane lì nel traffico giù allo Rouge insieme con pezzi di ala che se ne vanno sulla Ferrari ma anche sulla Red Bull di Verstappen e tocca molto, danneggiata, danneggiata la Ferrari. Spalla che passa Icardi! Icardi! Stavolta non sbaglia! Ha pareggiato l'Inter! Isla che mira la porta, il traversone deviato! Marco Sau che ha toccato il pallone sotto porta e trova il gol del 2-2! Oggi vi aspetto belli carichi, è 800 24 00 24 per le vostre telefonate fino alle ore 15 oppure 349 238 6666 sms e whatsapp. Dopo il sabato delle conferme, quello ad esempio sulla superiorità della Juventus che vince anche tenendo fuori nuovi, oppure sul Napoli che anche senza Higuain mi pare possa essere la più seria candidata a provare a dar fastidio alla Juventus, beh, dopo il sabato delle conferme è arrivata la domenica con la difficoltà delle altre, l'Inter ad esempio, ma io ripeto non c'è nulla di sorprendente vista l'estate trascorsa. Oppure anche la Roma, che non si è rialzata dopo il KO di Coppa contro il Porto. Pierluigi Pardo, ciao. Come va? Eviterò di infierire. Bah, sì, su che cosa? Sulla Roma, sull'Inter? No, eviterò di infierire e non riproporremo il tuo pronostico di ieri su Inter-Palermo. Ecco, non capivo. Avevo previsto, no, ma mi auto-infierisco. Senso che avevo previsto una vittoria comoda dell'Inter, senza che nessuno si offendesse, ma insomma... Pensavo che, sì, vince che facile, il livello vince del Palermo facile. Sì, l'avevo detto. Lo ribadisco e invece no, non solo non ha vinto facile ma ha pareggiato, è andata sotto nel punteggio, sì, ha pareggiato facile. Ma neanche tanto, nel senso che poi ha avuto anche qualche occasione, sì, di confusione nel finale per vincere la partita, però quello che mi ha impressionato nel secondo tempo è che anche sull'1-1 comunque, anche quando il Palermo era un po' stanco, non ha rinunciato comunque a delle ripartenze, quindi vuol dire che veramente c'è qualcosa che non va. Sì, assolutamente, avremo tempo per parlarne dopo il traffico delle 14:15, anzi apriremo un'ampia pagina dedicata all'Inter, anche alle parole di De Boer che ha detto di aver visto tre passi avanti. Io non so i tifosi dell'Inter, sì, se li hanno visti. 800 24 00 24, sono fin da ora convocati. Così come è convocato Giancarlo Dotto, che ringrazio e saluto. Ciao Giancarlo. Ciao, buongiorno a tutti voi. Ci sono anche mille altri temi, dalle genovesi che sono in testa, i gol di Belotti ad esempio, che è il volto nuovo anche per la nazionale di Ventura che sta parlando proprio in questi minuti e che inizia la sua avventura. Scusate il gioco di parole. Vi faccio sentire, Pierluigi Pardo e Giancarlo Dotto, tre stimoli sonori però presi dal fine settimana al netto delle difficoltà dell'Inter. Perché mi piacerebbe sapere anche che cosa ne pensate. Allora, Spalletti che dice che la Roma non ha personalità. Si ha questa alternanza a volte che dipende dalla troppa qualità in un senso e la mancanza di un po' di carattere dall'altro. E bisogna, come si è detto più volte, bisogna riempire la partita di più cose. Non è solo quello che hai tu, ma è quello che ho io, un po' di quello dell'altro che devo fare. Insomma, dice, quando vai in difficoltà la Roma ci deve mettere anche altre cose e non riesce a fare. Il secondo stimolo è quello di Montella. Non è la battuta che ha fatto arrabbiare i cinesi, anche se poi è arrivata la precisazione sul bonifico mandato all'indirizzo sbagliato, Però Montella sul mercato che non è stato fatto del Milan, insomma, si è espresso in maniera abbastanza chiara sabato sera. Il giudizio non lo dà perché il mercato è ancora aperto e quindi vediamo nei prossimi giorni. Adesso ho qualche amarezza in più rispetto a quello che poteva succedere, non è successo dal mercato, quindi non ci penso. E poi il terzo stimolo sonoro che vi faccio sentire è quello di Sarri, che secondo me sul campo ha avuto la conferma di avere un Napoli competitivo, e però ricade sempre in quel nervosismo, credo eccessivo, non tanto sull'espulsione, poi però voglio sapere cosa ne pensate. Sarri. Io non se l'ho detto, ma che diavolo state facendo? Non c'era né tono minaccioso, né offese, né niente, quindi... Non lo so, molto probabilmente è più facile buttare fuori me che qualcun altro, da quello che vedo. Ma sai, buttare fuori un allenatore in tuta è più facile buttare fuori uno a doppio petto, probabilmente. Giancarlo Dotto, da dove preferisci partire? Ma sono tre stimoli sonori, tutti e tre molto, molto interessanti, molto stimolanti. Non so, in ordine cronologico direi Spalletti, forse? Sì. Ti ha fatto un po' impressione sentirlo, no, ma anche Spalletti. Cioè, fa un po' impressione sentirlo sotto processo per la prima volta, da quando è tornato a Roma. Sotto processo, sotto tono, sai, Spalletti, il problema della Roma è che non c'è una società, ci sono alcuni individui abili, anche intelligenti, che però non fanno società, alcuni sono anche in conflitto tra loro, tra Boston e Trigoria. Spalletti si è assunto sulle sue titaniche spalle tutto, ma evidentemente le spalle sono titaniche, ma i nervi sono abbastanza fragili. Soprattutto quando viene a cadere quello che sembrava un presupposto insomma centrale di questa Roma, cioè proprio la personalità. Cioè, Spalletti ha voluto costruire questa Roma proprio sulla componente della personalità, sulla componente vera. E si ritrova invece la Roma assolutamente faticosa, ripetitiva, che con questo complesso, con questa vocazione suicida, alla quale devo dire ha dato anche un contributo pesantissimo alla società stessa, cioè quello che è la parvenza alla società, con questa mossa di De Rossi che mi ricorda le più tristi vicende dei codici etici, quello della fascia tolta per l'espulsione, sì, contro di Prandelli, sì. Di Prandelli, di cui tra l'altro De Rossi è stato anche vittima, cioè, di queste astrazioni feroci che insomma che obbediscono solamente a una logica, quella di non avere una reale autorità, e quindi ha portato in campo un giocatore assolutamente svuotato, non soltanto dalla fascia ma anche dalla possibilità di essere se stesso. È una squadra fortemente confusa e smarrita da questa scelta francamente ridicola. Questo per quanto riguarda, sì, Pier, ti aspettavi qualcosa di diverso dalla Roma ieri sera, proprio a livello di reazione? Era lecito aspettarsi? La Roma in realtà aveva reagito, nel senso che poi nella partita di ieri la Roma ha avuto tante occasioni, è andata sul 2-0, però poi ancora una volta emergono i limiti che altro caratteriali di questa squadra. Sono d'accordo, qui c'è una vocazione veramente suicida di questa squadra che quando arriva un passo dal traguardo implode per qualche motivo di carattere tattico, perché ieri ho rivisto la difficoltà nel finale nella gestione del possesso palla, che si era vista per esempio nel secondo tempo della partita andata contro il Porto, una squadra alla quale serve secondo me moltissimo un palleggiatore, un buon cavaliere della situazione, un giocatore capace di far respirare la manovra. E la Roma ieri sul 2-1 ha avuto le occasioni per fare il 3-1, ma non ha avuto invece la tranquillità per congelare la partita e il possesso palla. E Spalletti è sempre stato, diciamo che Spalletti in questi mesi non è che ha vissuto proprio la tranquillità fatta periodo, nel senso che comunque c'è stata tutta la vicenda di Totti e c'è stata una parte importante dell'opinione pubblica romana che Spalletti non è che proprio l'abbia amato tantissimo. I risultati erano dalla sua parte e rimangono secondo me dei risultati molto buoni. Spalletti ha fatto delle cose secondo me molto positive, però è chiaro che se poi tu lavori per 8 mesi, come da suo stesso virgolettato di conferenza stampa, arrivi alla partita più importante e questa partita la perdi, è ovvio che le cose inevitabilmente cambiano. Però insomma la bontà del lavoro di Spalletti mi sembra francamente abbastanza indiscutibile. Però io ho l'impressione, Pier, al di là del suicidio contro il Porto, non so cosa ne pensate, che forse Spalletti abbia anche sopravvalutato la forza di questa Roma. Spalletti due settimane fa diceva che questo era il gruppo più talentuoso mai allenato. Sono cose che si dicono, eh? Sì, si dicono, però poi ti tornano indietro. Si dicono se sai di averlo o comunque di esserci vicino. Sì, però si dicono anche un po' per autostima, insomma. C'è Giancarlo, è un esperto di musica, di arte, di letteratura, cioè non c'è un album che non venga presentato di un cantante come il migliore della propria carriera. E qui c'è anche la componente di carattere psicologico che secondo me comunque lui ha provato a dare a questo gruppo fiducia. Ma questo, voglio dire, fino a martedì scorso questo era un gruppo pieno di autostima, perché Spalletti ha fatto 17 risultati utili consecutivi, se non sbaglio, dopo la sconfitta contro la Juve l'anno scorso. Ha girato nel girone di ritorno. Sì, ha fatto 46 punti. Ha fatto 46 punti. Sì, Giancarlo. Posso dire una cosa a proposito? Io sono convinto invece che Spalletti ci credesse veramente. Il suo contraccolpo mi è sembrato tanto più forte quanto più lui era convinto di questa. Lui era veramente convinto di una squadra con personalità, con qualche problema tattico. C'è un problema assolutamente enorme che riguarda Florenzi, il quale ormai sta confessando pubblicamente in tutti i modi di non voler più giocare in quel ruolo, e lo sta confessando facendo cose astruse, tipo quella che poi ha portato il pareggio. Quindi ci sono dei problemi, ma in questo momento l'unico vero romanista a Roma è Luciano Spalletti. E lo dimostra la reazione, quell'incredibile tuffo che fa nel nulla, che fa in una piscina vuota, sì. Ma non nel momento in cui credo sia proprio Florenzi a sbagliare il gol del 3-2. L'unico vero romanista è lui, e mi fa molto ridere che c'è una certa stampa improvvisamente chic romana che fa appunto contesta questo eccesso di gestualità di Spalletti. È vero che Spalletti qualche volta esagera nella parola, nel gesto, ma questo ambiente, se ha bisogno di qualcosa, ha bisogno proprio di una passione, visto che il tifoso è diventato a Roma una specie di opinionista velenoso e malato di critica, visto che i tifosi non ci sono più, visto che i dirigenti sono chi sta dove, sparsi per il mondo, uno così ci vuole. Quindi però chiaramente il cortocircuito è sempre lì, pronto, certo, nel momento che le cose sono male. Posso in 30 secondi dirti che sono d'accordissimo e credo veramente che la forza più prorompente del messaggio di Spalletti di questi mesi sia stata proprio questo: prendere di petto tutta una serie di problemi. La questione di Totti nella maniera più è diciamo l'esempio più trasparente, la cosa più plastica, no? La visione più plastica che abbiamo, ma sicuramente anche su mille altre questioni Spalletti è entrato con la sua personalità e ha cercato di cambiare un po' la mentalità dell'ambiente, dei tifosi. Questo non ci sono dubbi. Sì, ha giocato più ruoli, Pier, ma lo diciamo da mesi. L'ha fatti molto bene, ma ripeto, poi questo arrivi, non ne, però arrivi, questo non necessariamente un bene, quando poi arriva il momento, quando arriva il momento della difficoltà. Mi viene in mente anche Mancini, che per mesi ha fatto tutto nell'Inter, anche perché Tohir stava a Giacarta e poi dopo la situazione però è implosa. Vi devo però chiedere un voto a Sarri, perché è uno degli altri stimoli sonori che abbiamo sentito. Sull'espulsione io credo abbia ragione. Sabato sera l'hanno detto anche tanti altri allenatori, gli arbitri oramai hanno una soglia di tolleranza che è troppo bassa nei confronti delle proteste quando non sono ingiuriose degli allenatori. Poi però Sarri ci attacca tutto il resto, ci attacca i discorsi su Pescara, sull'agosto che non dovrebbe essere periodo di campionato, insomma Sarri l'abbiamo imparato a conoscere. Io non so che impressione ti ha dato Giancarlo e poi Pierluigi. Guarda, Sarri è uno a cui è facile dare 8, poi se però approfondisci un po' ti viene anche facile dargli 4, perché insomma è un uomo fortemente scontroso che legge Bukowski, ma mi pare che ne ha subito un plagio abbastanza elementare, perché se tu porti la tuta, perché la tuta è la tua divisa, poi non può diventare un complesso, comunque un manifesto per far ripartire una specie di conflitto sociale anni 60 su chi sta in tuta e chi sta in divisa, è una cosa abbastanza ridicola. È un uomo che sicuramente sa fare il suo mestiere, ma deve trovare un modo di stare in questo contesto che lo ospita, dove lui ci sta alla grande, deve trovare però la misura, insomma, altrimenti rischia non solo di rendersi ridicolo, ma anche di fare il male della sua squadra, perché non credo poi alla lunga gli arbitri che sono non solo sono umani, ma spesso sono troppo umani, poi finisce che vanno a coltivare una ostilità più o meno conscia nei confronti di questo personaggio. Quindi insomma un po' la misura la deve trovare il ragazzo. Pier? Io penso che se la provocazione è che se è più facile che un allenatore con la tuta venga espulso, scusami, rispetto al doppio petto, si mettesse un doppio petto. Sì. Nel senso è chiaramente una provocazione. Noi abbiamo fatto tante volte, mille volte abbiamo giocato sulla semplicità di Sarri. Abbiamo lo scorso anno più volte sottolineato l'errore del Milan, perché sappiamo era stato a un centimetro la Sarri, e probabilmente non l'aveva preso proprio per una questione, diciamo, di immagine, di physique du rôle, di immagine percepita e di comunicazione più che di sostanza. Quindi lunga vita a Sarri, al Sarri allenatore, e la semplicità è certamente un valore, insomma, non c'è dubbio, detto da uno che si mette la cravatta una volta proprio quando deve, quindi ci mancherebbe altro. Però dico pure che mentre il Sarri allenatore merita un voto altissimo, il Sarri comunicatore secondo me è ancora da migliorare, e siccome gli allenatori delle grandi squadre, e il Napoli ha l'ambizione e anche la qualità per poterlo essere, devono essere bravi a 360 gradi, devono essere bravi nella comunicazione, devono essere bravi nella gestione dell'ambiente, devono essere bravi nel rapporto con i dirigenti, e poi c'è il campo ovviamente. Nel campo che è una delle sul componenti, non mi convince molto, perché mi sembra che dia spesso alibi ai giocatori. È la famosa questione: giochiamo prima, giochiamo dopo, giochiamo presto, giochiamo tardi, giochiamo agosto, giochiamo fa troppo caldo, fa troppo freddo. E poi anche, secondo me, in tutta una serie di comportamenti in campo, sì, può darsi pure che ci sia un po' di prevenzione, o che lui non abbia ancora quel livello di leadership che porta magari certi arbitri a voltarsi dall'altra parte. Però è una domanda che lui si deve fare, secondo me. No, ma poi ci sono, insomma, l'anno scorso anche allenatori allora con più carisma e più leadership di Sarri, che insomma hanno fatto collezione di espulsioni. C'è il traffico, saluto Giancarlo Dotto, grazie. Ciao. Allora, c'è il traffico, vi leggo un messaggio perché poi i tifosi da casa scrivono: su Sarri siete dei servi e degli ipocriti, parlate del rigore negato a Pescara. Perché poi insomma il rigore l'abbiamo ricostruito una settimana fa, l'episodio. Però siamo qui, 800 24 00 24, 349 238 6666, traffico, torniamo. Qui si fa fatica, ragazzi. Tutti convocati. Convocati. Rispoli col sinistro, deviato! Rispoli con deviazione, segna il primo gol in Serie A e porta avanti il Palermo! I just wanna stay in the sun where I find. Personalmente, per me che sono attaccante, il gol è sempre bello, però non va bene quando non si vincono le partite. Il nostro obiettivo era vincere oggi, la prima in casa con la nostra gente. Abbiamo creato tanto e non è stato così. Quando si parla di non vittoria non possiamo essere contenti. Siamo amareggiati e delusi per non aver vinto quest'oggi. C'è da migliorare. Allora, c'è chi scrive che anche Guidolin in doppio petto non sarebbe il Guidolin che stimiamo, e sottoscrivo, secondo me non è un problema di tuta o di doppio petto, così come forse la condizione fisica scadente non è l'unico problema dell'Inter. Intanto saluto Riccardo Ferri. Ciao Riccardo, grazie. Ciao, buon pomeriggio. Mi dite che voto date all'Inter di ieri, perché il mio è un 4,5 abbondante. Poi dopo senti De Boer, ti dice che l'Inter avrebbe meritato di vincere 4-1, che ha fatto tre passi avanti, che voto date? Pierre e poi Riccardo Ferri. 4,5, 5 meno meno, insomma siamo in quell'ordine lì, siamo in quell'ordine di grandezza. Pareggio in casa con squadra di seconda fascia, con idee molto confuse, con una partita che a me, ecco, ripeto, la cosa che mi ha colpito di più è stata l'Inter. È chiaro che poteva vincerla, perché comunque nella seconda parte del primo tempo ha avuto le occasioni, tutta quella serie di colpi di testa, la partita poteva girare meglio sicuramente, il gol del Palermo comunque è un gol su deviazione, però quello che mi ha colpito molto è che anche, ripeto, nel finale col Palermo stanco, con l'inerzia psicologica che era favorevole all'Inter che aveva pareggiato, comunque il Palermo tutto sommato non ha sofferto tantissimo, è uscito bene, ha avuto un paio di ripartenze anche interessanti, quindi sono d'accordo con te, diciamo 4,5, 5 meno meno. Riccardo? Ma io mi astengo, lascio a Pierluigi la pagella, che chiaramente è molto più portato di me a dare dei voti, e lo saluto con affetto. No, io credo che l'Inter comunque abbia, rispetto alla prima partita, l'unica cosa, se possiamo così ipotizzare un pensiero positivo, è quello di aver reagito sul gol del Palermo. Indubbiamente la grande differenza è quella rispetto alla trasferta di Verona con il Chievo, dove la squadra ha giocato gli stessi ritmi sia quando era in pareggio sia quando era sotto di gran lunga. Quindi una reazione c'è stata. Detto questo, è una squadra ancora lontana dall'essere organizzata. Si vede che comunque De Boer vuole che si giochi in ampiezza. L'idea c'è, ma non ci sono ancora, non c'è ancora quella grande disponibilità da parte di tutti di recuperare palla velocemente, di chiudersi quando si difende e di ripartire quando si ha la palla. Questo dipende dalla condizione fisica, non credo solo da quella, dipende molto anche dalla consapevolezza di quello che devi fare. Quindi io, De Boer ha detto che aveva bisogno di 4 mesi, poi di un mese solo. Io credo che ci voglia comunque del tempo per cercare di inculcare a questi ragazzi, che hanno delle qualità, secondo me, sicuramente al di sopra della media, inculcare quello che è un po' il volere dell'allenatore. Ma le difficoltà Riccardo, qualche limite strutturale? Non c'è qualche limite strutturale? Cioè, ad esempio, ieri si è capito che di gente come Banega ne servirebbero due, ad esempio. No. Forse no, gli esterni difensivi mancano. No, allora diciamo che per ampliare la rosa e far sì che questa rosa sia competitiva a 360 gradi mancano sicuramente gli esterni e probabilmente anche un centrale. Però devo dire che individualmente la squadra, e lo dicevo all'inizio del campionato, qualitativamente non ha niente da invidiare alla Roma, né tanto meno al Napoli e via dicendo. Quindi le antagoniste in primis della Juventus. Quello che serve è quello di creare una struttura e una fisionomia. Io credo che l'Inter in questo momento qua non abbia ancora una fisionomia. Si è partito con la partita col Chievo giocando a 3, ora si è giocato a 4 e credo che sia, secondo me, l'assetto tattico migliore. Detto questo, bisogna crederci, bisogna lavorare chiaramente sul fisico per far sì che questo ti permetta di esprimere al meglio quella che è un po' la filosofia tattica, ma soprattutto sulla testa dei giocatori, e far sì che questo allenatore possa comunicare più fretta possibile quali sono le sue idee e trasferirle al gruppo. Adesso ci sono 15 giorni di tempo per lavorare, però la maggior parte di questi ragazzi se ne va per le proprie nazionali. Ne vanno 12. Sicuramente è un lavoro difficilissimo da parte di De Boer e del suo staff, quindi ci vorrà sicuramente un apporto importante anche da parte della società, che deve mettere a disposizione di De Boer tutte le forze necessarie per far sì che il suo pensiero venga trasferito in fretta e continuare su questa strada. È chiaro che la partita di ieri, tornando al discorso di dare un voto, è ingiudicabile. Io credo che l'Inter abbia sicuramente molta più qualità del Palermo e, come dicevo prima, possa competere con le squadre che si mettono da pari in partner nei confronti di una Juventus che in questo momento è invincibile. Pier, scrive un amico: manca João Mario, la ripresa arriverà. Poi c'è chi comincia a scrivere tra i tifosi dell'Inter che forse Frank De Boer potrebbe non essere l'allenatore adatto. Io adesso credo che questo sia tutto assolutamente prematuro, però insomma la considerazione sul fatto che forse strutturalmente manca qualcosa a questa squadra io credo si possa fare. Sì, io credo, lo dicevamo anche ieri, che c'è un grande problema, che è l'elemento tempo, che è duplice, perché da un lato De Boer ha avuto e ha una partenza handicap, è arrivato da poco, non ha avuto tutta l'estate per poter lavorare, quindi sicuramente questo tipo di situazione non lo aiuta e chiaramente questa falsa partenza gli mette ancora più pressione. E il secondo elemento legato proprio al tempo è proprio quello che dicevo prima, cioè che comunque l'Inter negli ultimi anni non ha vinto. Arrivare all'Inter significa scontrarsi con una piazza, con una realtà che in questo momento sta faticando tanto, che è abbastanza insofferente, legittimamente insofferente, impaziente. Quindi questo elemento secondo me rischia di essere il fardello per l'Inter. Giocare a San Siro negli anni, Riccardo ce lo dirà, insomma, per le grandi squadre ovviamente quando le cose vanno molto bene San Siro è un fortino, cioè il miedo scenico, come direbbero a Madrid, per gli avversari, la paura del contorno per gli avversari. Ma sappiamo bene che San Siro è anche un luogo dove, se tu invece non sei abbastanza forte o comunque non sei abbastanza sicuro di te stesso e fatichi, tutto diventa più difficile, perché ci sono i brusii, i mormorii, la sensazione che non sei all'altezza di una storia che è stata una storia, vale anche per il Milan, ovviamente molto vincente. Mi dite se fareste lo scambio, oggi qualcuno lo scrive, anzi credo la Gazzetta dello Sport, tra Brozovic e Fabregas, cioè se Fabregas magari potrebbe essere quell'uomo che serve a centrocampo ad affiancare a Banega, Riccardo? Dipende un po' anche dall'aspetto economico. Io credo che Brozovic sia, come è stato detto anche da Piero Ausilio, no? Proprio ieri i nostri microfoni di Mediaset Premium, è considerato quasi incedibile, quindi di conseguenza dipende un attimino un po' anche dall'aspetto economico. Detto questo, tecnicamente credo che non porti queste grandi migliorie, quindi io mi terrei Brozovic e continuerei su questa strada, ripeto, cercando di organizzare al meglio la squadra. E concordo pienamente con quello che dice Pierluigi, San Siro, quando sali San Siro in queste condizioni i gradoni sono molto più alti del solito e fai molta più fatica a salirci, e devo dire che indubbiamente ci vuole tanta personalità per giocare in questo stadio, quindi l'ideale sarebbe riuscire ad ottenere qualche punto anche magari strappato giocando male e cercare di creare un po' di serenità nell'ambiente, perché l'ambiente diventa pesante soprattutto quando le cose non vanno per il verso giusto. Pier, Fabregas serve o no? Poi vi faccio sentire una cosa che è appena arrivata di Ventura su Berardi, preparatevi. Fabregas serve, Fabregas chiaramente, visto che facciamo il discorso del paragone con Brozovic, è un giocatore sicuramente, non voglio dire migliore, ma insomma con una storia, con un'esperienza, con una qualità probabilmente superiore. Io Brozovic però è un giocatore che non darei via, cioè a me sembra che... ma non li puoi tenere tutti, no, infatti, se hai scelto di portare Joao Mario... Ma infatti, questo è un discorso che facciamo da settimane. Ecco, io su Joao Mario veramente anche qui rischio il secondo a big fail stavolta. No, ma costato troppo, poi dopo dimostrerà in campo, insomma, questo così evitiamo... Il primo big fail era a favore dell'Inter, esatto. Questo è contro, quindi sono da questo punto di vista assolutamente super partes. E questa big fail lo rischio, nel senso Joao Mario secondo me è un buon giocatore, sicuramente è un buon giocatore, ma la cifra mi sembra fuori dal mondo, insomma, per quello che ha dimostrato e per quello che si è visto, che è molto, ha fatto un europeo bellissimo. Però sa, mi sembra un giocatore che può valere 25, no, una cosa così. Mm-hmm. Non la cifra che sta pagando. Ma questa è l'estate delle quotazioni particolari. Rubo 30 secondi a Riccardo Ferri, che insomma sa cosa significa stare in nazionale e anche quali sono le logiche, i tormentoni ciclici della nazionale. Vi faccio sentire cosa ha detto 10 minuti fa Ventura a proposito della mancata convocazione di Berardi, che non è per l'infortunio, per carità, non sarebbe andato magari in nazionale, è perché lui l'aveva lasciato a casa. Ventura: è abbastanza evidente che nel 3-5-2 ho dimenticato il Shaarawy, prima parlando di quelli che non erano stati convocati. È evidente che il Shaarawy è stato convocato, ma aveva pochissime possibilità di essere utilizzato, non perché il Shaarawy non è un ottimo giocatore, ma semplicemente perché in quel modulo non c'è il ruolo di Shaarawy. Quindi voglio dire, credo che sia banale questo che dico. Lo stesso discorso in parte vale anche per Berardi, quindi finché il modulo è questo è evidente che gli esterni offensivi trovano difficoltà a trovare collocazione. Detto questo, rimango anche però dell'idea che c'è un'infinità di esterni offensivi assolutamente di grande prospettiva, quindi è un peccato mortale non dedicargli del tempo. Oh, Riccardo, mi dici cosa ne pensi? Cioè, Berardi è il miglior talento italiano, io non vorrei che cominciasse il tormentone per cui non si può portarlo in nazionale perché non è adatto al 3-5-2. Allora, parto dal presupposto che Ventura lo stimo particolarmente, quindi, e credo che sia uno dei pochi allenatori che abbia sempre comunque valorizzato i giovani e abbia sempre tentato di valorizzare i giovani. Si trova in una situazione che deve fare delle scelte. Io, se potessi consigliare Ventura, non farei queste dichiarazioni all'inizio di un'avventura come la sua. Perché è chiaro che può essere che magari tu debba anche cambiare, perché nel mondo del calcio tanti allenatori si sono anche trasformati, no? Con l'andare del tempo. Quindi è probabile che magari ti trovi del materiale diverso a quello che tu probabilmente vorresti trovare e devi ripiegare magari su altri giocatori che, come in questo caso, hai già escluso a priori. Berardi è un potenziale importante del nostro calcio, è un qualcosa di straordinario. Quindi io credo che ci sia da parte di Berardi anche una grande duttilità, che non vuole andare a dire che possa giocare in tutti i ruoli, ma sicuramente ha dalla sua una grande capacità di giocare sia con palla che senza palla. È abituato a vivere la sua esperienza professionale in una squadra che è molto organizzata, ma dallo stesso tempo è una squadra che gioca sia con palla che senza palla in maniera molto coesa. Quindi non condivido molto, per la prima volta non condivido le dichiarazioni di Ventura, e mi auguro che ci possa ripensare e che possa rivedere un attimino quella che è l'esperienza che sta iniziando. Sì, sì, è particolare come lettura. Grazie Riccardo. Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro. Grazie Riccardo Ferri, c'è Davide della provincia di Pistoia, 800 24 00 24, la borsa, ripartiamo da lui. Tra poco, nuove notizie, a più tardi. Pigia il coso rosso, grazie. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Convocati. Qualche messaggio che è arrivato, 349-238-6666. Mario scrive sull'Inter: è un peccato che il risultato abbia spazzato via i miglioramenti visti. Poi ancora c'è chi chiede che lingua parli De Boer nello spogliatoio. Io credo inglese, Pier. Beh, credo anch'io, sì. Ma non è l'unico, eh. Poi c'è chi scrive: all'Inter mancano due terzini e un centrocampista che detti tempi di gioco, ma forse ne manca anche solo uno di terzino, però uno manca. Sì. Poi chi scrive che è mancata la cattiveria. Ieri all'Inter anche il gol preso ha evidenziato una certa leggerezza. Andrea scrive: sì, ci sono stati un paio di errori all'inizio di quell'azione. E poi ci sono alcuni commenti sulla vicenda di Berardi e di Ventura. Ripetiamo, Ventura ha detto: Berardi, così come il Shaarawy, poco adatto al 3-5-2, e anche per questo non l'ho chiamato in nazionale. Io non so come la pensi tu, Pier. No, io credo che avevo già raccontato, ma in qualche modo quello che ha detto oggi, proprio ho sentito le stesse parole, avevamo fatto questa scena insieme, c'erano anche altri colleghi pochi giorni prima della sua chiamata. E insomma, sicuramente queste cose lui le pensa, non mi riferisco tanto a Berardi, ma alla grande qualità degli esterni offensivi italiani, che credo che siano una grande risorsa nella testa di Ventura. Io penso che lui possa pensare anche in futuro di giocare con altri moduli. In questo momento ha scelto nella ricerca comunque di designazioni e di convocazioni sicuramente proiettare verso il futuro, ma la sua ancora di salvezza, diciamo, la sua invece l'elemento più di conservazione legato al modulo. Ha scelto la prudenza sul modulo con degli interpreti però molto giovani e molto interessanti, quindi è un lavoro di prospettiva, ma se avesse cambiato anche il modulo in questo momento probabilmente andava a prendersi un rischio eccessivo. Sì, però Berardi non può stare fuori da un nuovo ciclo della nazionale adesso. Berardi, Berardi non magari domani ne parliamo Berardi in maniera più approfondita, non cerchiamo fuori dal ciclo. Secondo me della nazionale sarebbe una follia adesso. Assolutamente, ma secondo me Berardi, se continuerà a questi livelli, troverà posto tranquillamente. In questo momento, in questo tipo di situazione, con questo bisogno di 3-5-2, è stato messo un attimo in panchina. Ma sono d'accordo con te sul fatto che lo meriti, e secondo me lo sa anche Ventura. Davide della provincia di Pistoia. Buonasera, eccoci. Io vorrei condividere con voi un pensiero, insomma, volevo sapere cosa ne pensate di due situazioni che apparentemente sono separate, ma che in realtà non lo sono. Una è quella del Pisa, a cui viene permesso di non giocare una partita, e il Pisa tra l'altro non ha fatto scendere in campo neanche la squadra primavera in Coppa Italia, sì. Primavera, credo. E secondo voi quante responsabilità ha il presidente di Lega Abodi sulla vicenda del Pisa? Sì. Sì, nel prendere una decisione così, cioè, in fondo l'ha presa lui al 100% delle responsabilità, però io, Davide, penso anche che sia stata una scelta di buonsenso. Poi non si può andare avanti chissà quanto, si fermano le bocce, si capisce se c'è la possibilità o no che il Pisa disputi questo campionato, e poi insomma si prendono le adeguate misure. Io la penso così, Davide. Prego, però. Io dico solo, è una situazione che il Pisa si porta dietro da un po' di anni, quella di una società molto debole, molto fragile, con dei presidenti che secondo me non hanno le potenzialità per fare il presidente di una squadra di calcio, ma soprattutto se c'è una regola che venga rispettata questa regola. Insomma, il Pisa ha presentato una fideiussione bulgara un po' particolarmente strana da quello che so, e anche lì secondo me che all'inizio non era stata accettata, no? Tra l'altro sì, e poi però ha passato i controlli e quindi fino a prova contraria dobbiamo presumere che fosse buona, e comunque le fideiussioni non le controlla la Lega ma la Federcalcio. Davide, io lo capisco, capisco anche l'arrabbiatura dei tifosi della Ternana ad esempio, che legittimamente pensavano di poter vincere a tavolino. Io però credo che in questo caso sia stata presa una scelta temporanea, ripeto, di buon senso, e il caso del Parma di un paio di stagioni fa credo possa spiegarcelo. Mi fate raccontare l'altra storia, quella invece molto bella e romantica di queste ore, quella di Cavani, il ritorno a Napoli. Ma che cos'è quel nodo in gola che mi assale? Che cos'è? Cavani, ne salta uno, due, siamo al limite dell'area, Cavani, la palla, Cavani! Cavani, incredibile, sempre lui, super Cavani, super Cavani! E l'hai innamorato del Napoli, vedere Higuain andare alla Juve ti ha fatto male, l'hai seguita la vicenda? Guarda, ognuno sceglie e fa quello che sente di fare, quindi io cosa ti posso dire? Non l'avrei fatto male. Nostalgia, nostalgia canaglia. Ora Lavezzi con la sua velocità, il tocco per Amsic, posizione regolare, parte opposta, Edinson! Cavani! El Matador, tripletta 3-0. Questa è una serata che scriverà nel suo diario. Saluto Maurizio De Giovanni, scrittore tifoso del Napoli, che ringrazio. Buon pomeriggio a tutti. Non so se mai potrò perdonarvi questa nostalgia canaglia. Perché? Sottofondo musicale. Beh, ma insomma, è giusto, oltre perché l'ha messo Giorgio De Luca, altro noto tifoso del Napoli, autore di questa trasmissione. Anche perché, insomma, anche questa scena dei tifosi del Napoli che assediano un hotel, perché si è sparsa la voce che è tornato Cavani. 400 persone. Meravigliosa. Sì. No, va detta una cosa, insomma. Sì. La quota di amore che c'è in questo grande business che è diventato il calcio, no? Io credo vada salvaguardata come una forma di razza protetta. Cioè, la quota di passione, di amore, di altri valori vanno salvaguardati. Il ritorno di Cavani, che sembra un'assurdità ormai dal punto di vista della posizione del calcio italiano, del calcio europeo, del calcio mondiale, per disponibilità di soldi, per appeal da un punto di vista internazionale, poteva essere superata da che cosa? Dal fatto che Cavani ha due figli a Napoli, da cui soffre molto. È una questione di cuore, non di calcio. Sì, e poi c'è anche il fatto di potersi riproporre ai massimi livelli dopo aver fatto di fatto la riserva di Ibrahimovic per 3 anni, dopo essere stato ancora bersagliato da tutta la stampa francese che non lo ama. Poteva starci, dopo non aver vinto nulla con la sua nazionale, poteva starci che andasse a ricercare di nuovo il posto, l'ultimo posto dove è stato felice. E noi tifosi del Napoli, che abbiamo amato, che abbiamo visto questa abnegazione clamorosa di atleta, io vorrei ricordare per esempio che mentre l'ultimo centravanti del Napoli, che non nomino, ha fatto e si proponeva costantemente in termini litigiosi e negativi con i compagni di squadra perché non gli davano il pallone come lo voleva lui e lo faceva ogni volta. Cavani era uno che tu trovavi sulla linea di porta tua a difendere il risultato al 90°. Però il calcio Piero è una cosa meravigliosa, hai capito? Higuain, che fino a 2 mesi fa era il re, e quell'altro Cavani era il traditore. Come cambia? Guarda, io ti dico, intanto saluto Maurizio, e l'altra sera ero a cena con Massimo Zampini e Massimo Venier, che sono due tifosi della Juve, anche con amici invece, diciamo, con la mia amica napoletana, e alla fine mi è venuto in mente veramente così, parlo a bella vista, perché alla fine poi tutto si riduce a quello, nel senso che le 400 persone lì fuori sono ovviamente irrazionali, forse non sono neanche sane, forse non è sano che se si vuole vincere che ci sia questo tipo di pressione, questo tipo di atteggiamento, però sono una realtà, insomma, in realtà, che in qualche modo coincide anche col fatto che magari a Napoli, a Roma, a Firenze si è vinto meno che in altri posti, e che c'è un'identificazione profonda, nel caso di Napoli secondo me forse è il caso più clamoroso di tutti, fra città e squadra, perché poi Napoli è la città squadra, nel senso che è l'unica delle grandi città italiane che ha una sola squadra, quindi non ha una rivalità al suo interno, al di là della rivalità che esiste fra i tifosi del Napoli e quelli della Juve, dell'Inter e del Milan, che pure ci sono, a Napoli non sono pochi, però insomma è veramente una città squadra. E quindi è ovvio che siamo di fronte a qualcosa di illogico, a qualcosa di, forse ne ripeto, neanche troppo sano, ma che secondo me che è così. Che sì. È così. E ma... alla fine, appunto, ci si va a riguardare, così parlò Bellavista, la doccia è efficiente, il bagno è un incontro di pensieri, com'è sì, lì, sì, no? Sì. Certo, cioè... ma abbiamo quasi il traffico, però voglio rubare l'ultimo minuto, chiedo scusa ai colleghi del traffico. Tanto il fratello agente di Cavani ha detto: nessun contatto fino a qui, ma le cose possono cambiare se arriva un'offerta al Paris Saint-Germain. Quindi attenzione, che potrebbe non essere semplicemente una bufala. No, voglio chiedere al tifoso Maurizio De Giovanni. Allora, De Laurentiis che parte prende in questa commedia? De Laurentiis che scrive: stimo Edinson, ma non si può fare perché, insomma, non abbiamo bisogno di colpi ad effetto. Ma De Laurentiis è un imprenditore, un valido imprenditore. Il tifoso fa il tifoso. Noi abbiamo bisogno di innamorarci di un centravanti. Noi abbiamo bisogno di un centravanti di cui essere innamorati, e dico centravanti, non dico un centrocampista, non dico un difensore, non dico un portiere, perché il centravanti sintetizza meravigliosamente quello che il calcio è, cioè il gol. Noi abbiamo bisogno di esplodere, noi siamo fatti per le grandi esplosioni e per le grandi depressioni, è il nostro popolo che ha questa formattazione interiore, quindi per quanto ci riguarda abbiamo bisogno di un centravanti di cui innamorarci. Che questo centravanti possa essere consolidato e abbia già dimostrato il proprio immenso valore come Cavani, significherebbe dire ai tifosi da parte dell'imprenditore: cari tifosi, ce la giochiamo ai massimi livelli, non prendere Cavani, prendere un altro forte giocatore di prospettiva, Milik a 22 anni, può significare: cari tifosi, state a vedere che cosa arriviamo a fare, che è un'altra cosa. Se invece prendi Cavani, tu dici ai tifosi: noi abbiamo perso quel centravanti, ma ritorna un altro grandissimo centravanti internazionale di cui voi siete già innamorati. Quindi deve farlo, deve farlo. Deve farlo, sì. Deve farlo. Grazie Maurizio De Giovanni. Ciao. Grazie a voi, un abbraccio a Pierluigi. Ciao Maurizio. Pier, ti saluto, a domani. Ciao ragazzi, ciao. A domani, dopo il GR delle 14, invece dopo il traffico arriva Leo Turrini per parlare dell'autoscontro. Chiede un amico che ha scritto 349-238-6666 quanti gettoni per l'autoscontro ha ancora Verstappen, e gireremo questa domanda a Leo Turrini, ma anche quanti gettoni hanno Vettel e Raikkonen. Tutti convocati. Convocati. Raikkonen che si infila alle spalle di Rosberg con Verstappen che risponde, con Vettel che va all'esterno, il contatto tra i due piloti a Ferrari e Vettel che rimane lì nel traffico giù allo Rouge insieme con pezzi di ala che se ne vanno sulla Ferrari ma anche sulla Red Bull di Verstappen, e tocca molto, danneggiata la Ferrari. Quanto bene avevamo fatto ieri, soprattutto le possibilità, le grandi possibilità che avevamo oggi di mettere almeno due piloti sul podio. È peccato perché ci credevamo tutti, ma adesso bisogna girare pagina e guardare a Monza, che è il nostro gran premio. E riguardo a Monza, ve l'ho detto, noi teniamo i piedi per terra, qui abbiamo dimostrato di lavorare bene, abbiamo dimostrato che la gente a casa e qui c'è, adesso giriamo pagina, concentrati su Monza perché il Gran Premio d'Italia è per noi importante. Carissimo Leo Turrini, ciao! Come andiamo? È partito per le Paralimpiadi di Genza, perché noto che non c'è, quindi torna giovedì. Sì, no, ma sai che i VIP si pigliano le vacanze lunghe, altro che... Lo so, beato lui che là, Ibiza, Formentera. Diamo subito le notizie del traffico. Sulla Piero Cormano c'è la panda di Vettel ferma dopo aver speronato la multipla di Raikkonen, perché voglio dire, insomma, tutte le volte che il salto bevitore commette l'errore di essere più veloce del tedesco al sabato, alla domenica Vettel parte, addio ti fulmini, e capita sempre qualche cosa. Sì, cioè, hai l'impressione che gli rosichi un po' questa cosa? Sì, molto, molto. Ma in Ferrari lo sanno, ma devo dire che verso il di là delle battute è anche una cosa positiva, nel senso che è bello che la Ferrari abbia due piloti che stanno sullo stesso livello e che vivono comunque l'esigenza di confrontarsi in casa, mettiamola così, al di là di quello che è il valore assoluto della macchina. Poi dopo immagino che tu vorrai parlare moltissimo del prescelto, del chosen one, sì, che io ribattezzerei il prosciolto, che è appunto Max Verstappen, perché questo viene sempre perdonato dalle giurie della Formula 1. C'è chi chiede quanti gettoni ha ancora per l'autoscontro, ha anche l'età per l'autoscontro. Allora, è il prescelto o è il prosciolto? Questo è il grande interrogativo. È un po' prosciolto, dai. Allora, facciamo così. Sicuramente il talento di questo figlio d'arte, che io insisto, ha preso tutto dalla mamma al volante, perché il papà, io me lo ricordo, avendo 80 anni, c'ero, era un compagno di Schumi, era un pippone Verstappen padre, diciamo le cose come stanno. Quindi lui, il ragazzino Max, ha imparato a guidare dalla mamma. Quindi ha una qualità straordinaria, non dimentichiamo mai che ha soltanto 18 anni, però francamente io credo che stia esagerando. Guarda, non mi riferisco tanto all'episodio della partenza, lui lì si butta all'interno, è una mossa azzardata, ma in una logica di puro agonismo ci può stare, no? È quello che ha fatto dopo, perché lui veramente ha attentato alla vita di Raikkonen alla Radeon, piantandogli la macchina davanti a 280 all'ora. Questa è una cosa di una gravità inaudita. E poi dopo si è giustificato dicendo: ah, ma i piloti della Ferrari mi avevano rovinato la gara al via e quindi io mi volevo vendicare. Siamo proprio al Luna Park. Non ci siamo, no, non ci siamo. Qui io. Ma quindi credo... cosa si fa? C'è chi dice va fermato, c'è chi dice va fermato in maniera cautelativa per un po'. Allora, insomma, guarda, l'impressione che ho io è che chi deve prendere le decisioni, quindi i commissari di gara, no, sia un po' condizionato da questa Verstappen mania, perché parliamoci chiaro, sono ormai 3 anni che la Formula 1 è un affare Mercedes e stop, no? Hamilton, Rosberg, Hamilton. Io capisco chi mi dice: ma si fa fatica a non addormentarsi davanti al video. Quindi questo ragazzino che è della generazione millennial, che non ha nemmeno 20 anni, che non ha paura nemmeno del diavolo, è diventato, diciamo così, la risorsa estrema, no? L'ultima carta della Formula 1 per essere popolare, soprattutto appunto tra le nuovissime generazioni. Io questo lo comprendo e non mi fraintendere, io ammiro tantissimo il Verstappen pilota, questo è veramente un fenomeno. Il problema è che non ha il senso della misura. Il problema è che lui ha quella sfrontatezza che si traduce nell'assoluta mancanza di pudore di chi pensa: io a 18 anni sono immortale, invulnerabile, posso permettermi qualunque cosa. Cosa che evidentemente a 300 e passa all'ora non è possibile neanche per il prescelto. Guarda, io insisto, non sto parlando del via, perché una di quelle cose che abbiamo visto un miliardo di volte. È tutta la conduzione, insomma, che dà questa sensazione. Perché non è la prima volta che lo fa, qualche gran premio fa tagliò la strada 2 volte a Raikkonen quando lottavano per il 4º posto, l'ha fatto con Rosberg in un'altra circostanza. Lui si comporta come se le regole, che sono buone per tutti, valessero un po' meno per lui. Ecco, per chi si chiama Verstappen non valessero, quindi non è il prescelto, ma il prosciolto. Probabilmente in questo momento gli viene anche fatto credere e hai spiegato bene anche forse le ragioni profonde del perché. Guarda, Giovanni, io, come tu sai, potrei essere tuo nonno. Sì. Allora, ti racconto una storia di 2 carissimi amici che non ci sono più, Michele Alboreto e Ayrton Senna. Era la metà degli anni 80, Senna era appena arrivato in Formula 1 dopo un debutto con la Toleman, cominciava a segnalarsi con la Lotus e aveva un atteggiamento sull'asfalto di chi si riteneva appunto un predestinato e immaginava di potersi permettere qualunque cosa. Una volta Alboreto mi disse: lui, questo ragazzo brasiliano, è fortissimo, ma deve capire che in pista non ci si va da soli. E al Moreto un paio di volte, una volta a Monte Carlo, una volta in Germania, gli fece prendere paura Senna, no? Con delle manovre molto al limite, proprio perché gli voleva mandare un messaggio preciso. Poi Senna anni dopo, perché la vita è una ruota, scusami la banalità, fece la stessa cosa con Sumi, una volta gli mise addirittura le mani addosso a dei test privati che allora si potevano fare a Hockenheim, un campione di Germania. Schumacher aveva fatto, insomma, lo sciocco tirandogli una staccata, lui quando arrivò ai box si precipitò al box della Benetton, perché allora Michael era la Benetton nel 92, e tentò di menarlo, perché comunque in pista però poi così si crede, deve esserci un rispetto, hai capito? Ci deve essere però finché Leo qualcuno non spiegherà a Verstappen come si sta in pista, ho l'impressione che saranno scene che rivedremo Genta, ancora. Come direbbe gente che ha studiato e sta facendo i di mare a Formentera, no? C'è un grande problema che riguarda proprio il sistema, chiamiamolo così, giudiziario della Formula 1. Tu lo sai che per ogni Gran Premio in Formula 1 i commissari, i giudici di gara, per intenderci, cambiano sempre. Cioè non c'è nemmeno un gruppo fisso, non ti dico sempre. Beh, difatti è la cosa più divertente di tutti in queste stagioni grigie dominate dalla Mercedes. Aspetta, cioè, tipo che tu ieri, sai, non sai no? mai cosa aspettarti. Certo, ma ieri i due commissari ex piloti erano due della 500 miglia di Indianapolis, nordamericani, che non sanno niente di Formula 1 perché sono abituati agli ovali. Insomma, tra l'altro c'è anche una difformità di giudizio, perché poi se ad esempio ieri sulle Ardenne ci fosse stato il mio amico Pirro, che è uno di questi commissari di gara, piloto italiano che ha vinto ripetutamente le 24 ore di Le Mans, io sono convinto che avrebbe penalizzato Verstappen. Che gli avrebbe tirato le orecchie. Sì, perché lui viene, è stato in Formula 1. Allora, è assurdo che la Federazione Internazionale Automobili non abbia il suo gruppo di arbitri, senza schede svizzere di Moggi, per capirci, che siano 6, 8, 10, che ruotino per Gran Premio, ma che diano un'uniformità di giudizio. Perché questa è la cosa, hai capito? E io ho il timore che con questa spregiudicatezza, sprontatezza da ex minorenne che si crede, ripeto, invulnerabile, Verstappen prima o poi vada incontro a qualche brutta sorpresa, perché prima o poi lo trova il collega che gli dà la ruotata, che evita di fare quello che ha fatto Vettel ieri, cioè allargarsi. Kimi, scusa, ieri, cioè allargarsi. Leo, abbiamo chiuso, ti saluto. Vai sulla Pero Cormano, che veste le Raikkonen, sono ancora lì incagliati, hai capito? A fare ruotate. E c'è la cosa, ci sentiamo presto, siete meravigliosi, dia gente che insomma staremo quasi a settembre. Sì, ma difatti lui torna, lunedì torna, credo sia il 3, il 2, l'1, non so che data è, 1 settembre, torna come l'autunno, lui torna. Grazie Leo. Noi ci fermiamo qui, io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Giovanni Melchiori in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, ci risentiamo domani dopo il GR delle 14. Ci vediamo domani, enjoy!